che mi dici sono parole buttate al vento. Ti vedo in giro sempre felice e contento, fuori vivo ma da giorni sono morto dentro. Sei una persona falsa come tutte quante le altre, sei più falsa delle banconote contraffatte. Ti lamenti se ora con te sono duro, e se mi chiedi scusa nelle tue orecchie rimbomba vaffanculo. Lei che il culo è e non molli, lei che il culo è peggio di quando attacchi i francobolli. Per te presupponi da spaccare le gengive, dopo quello che hai fatto puoi pure morire. Dici che spari a freddo portando sangue e strage, ma in realtà spari sì, le cazzate. Parli di me perché i tuoi versi sono distrutti, è vero un nome di cazzo perché stai in bocca a tutti. Mi chiedi scusa ma tu non hai più importanza, io più rime del cognome di Cristina 40. Posso crederci ma per te provo odio, ragioni come al cazzo che hai in testa la particella di sodio. Mi sto zitto, non dico quello che ho visto, ed ora per te fai come se non esisto. Ero quello che in difficoltà ti copriva, ora c'è un punto. E non parlo della Fiat, ti ho confidato i miei momenti critici, ma ora ho scoperto che sei più falso dei politici. Non ti alzo le mani o finisci stampelle, ti alzo le mani altrimenti sento la puzza delle ascelle. Gente falsa, io non ne voglio più. Gente falsa, io vorrei buttarvi giù. Gente falsa, io vorrei farvi morire. Gente falsa, io vorrei vedervi soffrire. Gente falsa, io non ne voglio più. Gente falsa, io vorrei buttarvi giù. Gente falsa, io vorrei farvi morire. Gente falsa, io vorrei vedervi soffrire. Tu monti il tuo mento, monto sotto questo monte. Se ti guardo storto non è perché sono strabico, non credo nel tuo credo, ma non lo rinego. Sei così falso che se dici che sei falso non ti credo. E ora mi volto senza rimorso e vedo sangue sulla strada che ho percorso. Cerca di fede mai avuta da quando vivo, ma la mia fede finisce sul terzo dito. Non osare più non chiedermi rispetto in tema musicale, saresti un falsetto. Tante volte volevo pestare la tua salma, ma sono stato costretto a mantenere la calma. La porta si è chiusa fra, non fai più gol, ed ora sei più falso di reality show. Ho fatto tante domande ma senza risposta, sei falso quanto i vecchi, ti amo di una stronza. Non ti guardo come faccio con Beautiful, e mio angelo vola solo perché beve Red Bull. Hai un viso tondo ma non lo sfondo, ti dico ti odio in tutte le lingue del mondo. Le mie rime sono sincere quindi non puoi capirle, tu sei più falso delle mie firme. Non sfidarmi o fai la figura della checca, le tue rime non c'entrano un cazzo come in una figa stretta. Gente falsa, io non ne voglio più. Gente falsa, io vorrei buttarvi giù. Gente falsa, io vorrei farvi morire. Gente falsa, io vorrei vedervi soffrire. Gente falsa, io non ne voglio più. Gente falsa, io vorrei buttarvi giù. Gente falsa, io vorrei farvi morire. Gente falsa, io vorrei vedervi soffrire. Non cercarmi più, dimentica il mio nome quando starei giù. Io starò da leone, pensa a quello che hai fatto, come mi hai fatto stare. Se prima eri soddisfatto, ora invece ci stai male. Non farti sentire, non chiamarmi fra, non mentire perché i tuoi occhi dicono la verità. I nostri occhi si capiscono ma non tornerò da te. I tuoi occhi tradiscono come tu hai fatto con me. Non sento più quel calore, ora dal freddo tremo. Le tue belle parole le ho bruciate mentre piangevo. Ormai per me non sei più una persona cara, e quel giorno sarò l'unico a sputare sulla tua bara. Gente falsa, io non ne voglio più. Gente falsa, io vorrei buttarvi giù. Gente falsa, io vorrei farvi morire. Gente falsa, io vorrei vedervi soffrire. Gente falsa, io non ne voglio più. Gente falsa, io vorrei buttarvi giù. Gente falsa, io vorrei farvi morire. Gente falsa, io vorrei vedervi soffrire.